credeva. Ma il cuore è una radio che va. E se una radio è libera, ma libera veramente. Ascolta la radio. E radio e sessioni contagiano e con libere informazioni. Anni suonati, storia semiseria delle radio libere. Benvenuti a una nuova puntata di 40 anni suonati, storia semiseria delle radio libere, il programma che vi ricostruisce in ordine sparso i 40 anni delle radio libere e indipendenti. In questa puntata Franco Nasi, storico redattore di Blues, ci racconterà come fosse necessario per una piccola radio indipendente sapere improvvisare on e off air. L'aneddoto invece è affidato al nostro direttore Alessandro Canella, che ci spiegherà perché la radio attira i matti. Dall'archivio ascolteremo alcuni spot del 2001 di Radio Fujiko e un sondaggio tra gli ascoltatori, mentre il concerto è quello dei Depeche Mode a Bologna nel 1984. La rubrica sulle radio libere che non ci sono più, infine, è dedicata a Radio Rete Centrale. Buon ascolto! Siamo circa a metà degli anni Ottanta, qualche decennio fa insomma. Per un motivo che adesso ricordo, comunque temporale o cosa di simile, la radio non riusciva più a trasmettere, si era rotta l'antenna e ci si inventò praticamente di andare in piazza a dimostrare che la radio in realtà esisteva ancora. E coi mezzi dell'epoca, e quindi non è che ci fosse tanta possibilità di strumentazione, sia per l'aspetto economico ricordato, che proprio perché non erano ancora state inventate certe tecnologie. E quindi cosa si fa? Si recupera un furgone in maniera un po' così improvvisata, diciamo, e si va in piazza, Piazza Maggiore. Ovviamente l'accesso era vietato, ma noi scriviamo sopra il furgone stampa, siamo giornalisti, in realtà non era vero, ma scriviamo questo e arriviamo in Piazza Maggiore, prendiamo fuori le nostre attrezzature. Ovviamente trasmettevamo solo su Piazza Maggiore, non oltre, ma saliamo sul tetto del furgone e cominciamo a fare radio in diretta, che era una roba che non, a mio ricordo, insomma a mio avviso, non era mai stata fatta. E quindi la situazione è che siamo su un furgone in Piazza Maggiore di fronte a Palazzo da Curzio, con un banchetto recuperato a scuola, quei banchetti della scuola, una sedia e un mixerino, ma insomma, con cui trasmettiamo la radio. Facciamo radio lì per dimostrare che esistevamo ancora, nonostante tutto, e che eravamo in quel contesto a raccontare la radio. Ed era un po' quello che adesso si fa, la radio in diretta, adesso si vedono i canali televisivi dove si trasmette. Ecco, qui siamo a metà degli anni Ottanta, come dire, non c'erano queste cose qua, ma neanche si pensavano queste cose qui. Quindi è stata un'esperienza per il sottoscritto sicuramente, come dire, edificante, no? Per quanto la nostra intesa come radio, la nostra inventiva, la nostra caparbietà nel comunque andare avanti, nonostante i problemi economici e i problemi anche di autorizzazione, non c'era nessuna autorizzazione, ci attaccammo per far funzionare gli strumenti a un negozio in maniera abusiva con una prolunga presa a casa, quindi molto artigianale, ma come dire, molto d'impatto. Perché la gente si fermava, chiedeva cosa stava succedendo, perché sentivo qualcuno che urlava e sembrava una radio, ma in realtà non era una radio, era un furgone con sopra quattro pellegrini, noi che trasmettevamo e facevamo la radio in diretta, ma non era poi in diretta, non era via etere perché non c'era neanche la possibilità di farlo, insomma. E questo è un episodio che mi è venuto alla mente ricordando qui in radio il passato, insomma. Gli attacchi alle radio di allora erano di tipo economico, e anche, come dire, chiudiamo quelle poche radio che comunque trasmettono, sono libere, non si piegano al desiderio commerciale, all'impero commerciale, e vanno in piazza a trasmettere. Per cui non è che avevamo molti aiuti dall'esterno, no? Se non ci inventavamo qualcosa noi, passa una settimana, passa un mese, la radio non esiste più. E invece dovevamo continuare a far capire alla gente che esistavamo, l'antenna era rotta, non ci sentiva, non sentiva il nostro segnale. Come comunicare alle persone che noi eravamo ancora vivi? Non è che potevamo mandare un post su Facebook o cose simili. Dovevamo uscire in piazza e far vedere che esistevamo ancora. La radio esisteva, aveva problemi, ma esisteva. Oggi non saremmo arrivati in piazza, diciamo così, nel senso che ci avrebbero fermato, ci sarebbero stati la polizia municipale, i carabinieri e chissà che cose. Insomma, oggi non sarebbe neanche riproponibile, neanche pensabile, diciamo, nel senso che probabilmente anche noi ci organizzeremmo, dovremmo chiedere autorizzazione, perché sono cambiati i tempi. Allora, diciamo, questa cosa qui era anche tollerata, anche perché non succedeva spesso che si andava in piazza così, anzi, non succedeva mai. I'm a little bee. I love the sky and the trees. I'm a teeny tiny little ant. Checking out this and that. Dall'archivio. Dica 33. 33. Dica 33. 20. Dica 33. 21. Dica 33. 22. Giovedì 20, venerdì 21 settembre, fino all'alba del 22, Fujiko Festival. 33 ore non stop di musica, concerti, radio, di bar, di persone che si conoscono, di persone che si incontrano, di chiacchiere che si fanno, di balli su cui sudiamo, balliamo, cantiamo, parliamo, dormiamo, ci baciamo. Beh, insomma, può anche capitare. Buon compleanno, Radio Fujiko. Domenica 27 maggio dalle 10 a mezzanotte in piazza 8 agosto e in diretta su Radio Fujiko, la musica ribelle, giornata di musica e lotta per gli spazi culturali, sociali e musicali. Noi. Non stai registrando, è tutta una farsa. Un messaggio a Mingo. Beh, è un grande, spero che continui a fare musica nei locali che mi piacciono e che frequento e che continui su Radio Fujiko così come fa. La parte femminile di te ama Mingo intimamente? Ambigo come domanda. Ma sì, è un bel uomo, dai. Qualche capello in più gli farebbe bene. Tu hai notato la parte femminile di Mingo? Manifesta qualche tendenza omosessuale, non so, forse voi lo sapete meglio lavorando in radio. Ma secondo te il pelo è l'unica cosa che lo evidenzia come uomo? Secondo me, ora non vorrei fare una rivelazione troppo grossa, ma il pelo di Mingo è finto. Uomini e donne sono categorie ormai fluide. Marzullo? Sì, è proprio Marzullo! Quindi tu sai perché si chiama Fujiko la radio? No, credo che sia un tributo alla più grande tettona dei cartoni animati, suppongo. Ma ascolta, pensi che sia il fatto che ormai ritorna di culto la tettona maggiorata? A me piacciono le tette piccole, guarda, ti dico questa gran cosa, veramente. Quindi Fujiko per te non è per niente un sex symbol? No, preferivo Zenigata. Tu ascolti Tabloid? Tabloid è quello che va in onda dicendo questo radiogiornale andrà in onda in forma ridotta per venire incontro alle vostre capacità mentali. Cosa hai da dire? Mica telegiornale! Radio Fujiko! Radio Fujiko! Tu ascolti Tabloid? Tabloid è quello che va in onda dicendo questo radiogiornale andrà in onda in forma ridotta per venire incontro alle vostre capacità mentali. Un saluto per gli ascoltatori di Radio Fujiko, per gli ascoltatori di Tabloid, le redattrici di Tabloid che sono tutte ragazze. Diamo tutte! Però stasera sono così. Vai a cagare, va! IMCYNG! Uomini e donne, un'antinomia ancora valida? Sì. Un'ultima domanda su Fujiko. Secondo te il ritorno del culto delle tettone? Cioè, le tettone quando è che non sono mai andate di moda? Quindi viva le tettone, tutto sommato! Sai difendermi e farmi male, ammazzarmi e ricominciare. L'aneddoto. In questi 16 anni di esperienza radiofonica, prima a Radio Città 103, poi Radio Città Fujiko, sono giunto a una conclusione, a una certezza, ovvero che la radio attira i matti. Sarà forse per la sua dimensione evocativa, che mescola musica e parole senza le immagini, quindi lasciando spazio alla fantasia. Fatto sta che di telefonate di matti che hanno chiamato al 346458, numero storico di Radio Città, insomma, sono veramente tanti. Giusto per fare alcuni esempi, per fare capire un po' il tipo di telefonate strane che ogni tanto ci capita di ricevere. Quando cominciai in radio facevo un programma satirico che si chiamava Overlook Hotel, che poi è diventato Herpes, e lì una sera chiamò una donna che si chiamava Fiorella, che cominciò a recitare poesie sulla merda. Noi, che eravamo dei ventenni così un po' scanzonati e irriverenti, l'abbiamo messa in diretta. E questo è diventato un appuntamento settimanale. Solo che chi ascoltava da fuori pensava che fosse un intervento concordato all'interno della trasmissione satirica. Così invece non era. Era assolutamente spontaneo. Lei chiamava, noi la mettevamo in diretta e lei declamava queste poesie sull'appunto sulla merda. Ma altri personaggi strani che hanno chiamato, insomma, ce ne sono stati tanti, a partire da una persona che chiamava, magari sono all'ascolto tra l'altro, e chiamava per avere le informazioni sugli orari degli autobus, sull'apertura di uffici pubblici, insomma, scambiandoci per un numero verde di qualche servizio di informazione. Oppure persone che chiamavano per commentare la rassegna stampa, ma non semplicemente per fare un commento su una notizia che avevano sentito dalla lettura che ne ha dato Alfredo Pasquali, ma anche per partire da lì, per raccontare la propria vita, i propri aneddoti dal dopoguerra fino ad oggi. Oppure anche telefonate di persone che, insomma, non stavano proprio bene. Ad esempio abbiamo avuto un paranoico complottista che pensava di essere vittima di una congiura internazionale e che, dopo averci chiamato lui, quando gli abbiamo chiesto il nome, ci chiedeva: ma perché volevate saperlo? Insomma, sostanzialmente pensava che anche noi fossimo dei servizi segreti o di qualche polizia clandestina in giro per il mondo pronto ad ucciderlo. Insomma, tanti personaggi strani che vengono attirati da questo strumento che rimane affascinante, che è la radio. E dunque la radio attira i matti, ma fa anche molta compagnia. Il concerto 27 novembre 1984, Depeche Mode in concerto al Palatenda di Bologna. We'll be right back. C'era una volta. Radio Rete Centrale. Nell'esplosione di Radio Libere nella seconda metà degli anni 70 poteva capitare che il nome di una nascente emittente fosse un problema a causa di omonimie che potevano nascere e che in assenza di internet e social network era difficile verificare. È il caso di Radio Rete Centrale, che in origine si chiamava semplicemente Radio Centrale, ma dovette modificare il nome perché un'altra emittente privata lo registrò prima. L'emittente iniziò le prove di trasmissione in casa di Fabio Chiti, già fondatore di Radio Bologna 101, radioamatore e proprietario di un'etichetta discografica specializzata in liscio. Nella nuova esperienza, Chiti divenne direttore artistico, ma nella programmazione della nuova radio il liscio non trovò mai posto. Al contrario, arruolò un gruppo di DJ innamorati delle radio modello Radio Luxembourg, con jingle cantati, voce impostata, insomma una programmazione professional per contrapporsi alle tante radio dediche e richieste che monopolizzavano in quei tempi l'etere cittadino. Successivamente, gli studi vennero trasferiti nel suo scantinato. Grazie ad alcune sperimentazioni commerciali come la creazione di jingle pubblicitari in stile anglosassone, la radio ebbe un certo successo e fece parte per un certo periodo di un circuito nazionale, modificando il nome in Radio Centrale IN. In questo periodo, nella programmazione furono inseriti nastri registrati da personaggi noti nel mondo dello spettacolo e da speaker professionisti, poi il definitivo cambiamento del nome in Rete Centrale. La radio vinse un paio di edizioni di Radiolissima, sfidando le altre emittenti locali al Piro Piro di Toscanella. Il culmine venne toccato nel settembre dell'83 con la festa al Ciak, alla quale partecipò anche Vasco Rossi. Migliaia di persone affollarono il giardino estivo all'ex bel castello, con la speranza di sentire cantare Vasco, che però fece una breve apparizione, salì sul palco, salutò, poi dopo aver raccattato un paio di pollastrelle se ne andò. La dura vita delle rockstar. La radio seguì anche gli incontri di football americano dei Warriors con le radiocronache dalla Lunetta Gamberini, sport che conobbe un momento di gloria proprio in quegli anni. Nella sua prima parte di vita, Rete Centrale si concentrava quasi esclusivamente su programmi con le novità dance e hit radiofoniche internazionali, poi con l'arrivo di altri speaker, tra cui il nostro Andrea Gozza e i ragazzi di Vasco, Solieri e Riva, la radio cominciò a proporre programmi in stile rock. Robby Pazzaglia, in collaborazione con Bibi Ballandi, allora proprietario del Variety Studios, l'attuale Matis, nel lontano 1986 organizzò il primo collegamento della storia di una radio con la discoteca, con programmi in diretta dal locale, interviste, giochi e intrattenimenti vari. Il declino iniziò nella seconda metà degli anni 80. La radio venne rilevata da un network che la lasciò per un breve periodo in gestione a un'agenzia pubblicitaria. Gli studi si trasferirono in via Bastia e nelle ultime settimane cambiò il nome in Rete Europa. Una mattina la segretaria trovò la porta con la serratura cambiata. Rete Centrale non c'era più. Al suo posto, uno dei tanti network che cominciavano a mangiarsi la radiofonia locale. We'll be right back.